sua. Doler par la brisa tiedì, le bramine o fronte al miere, al miere. Appelé lentement la foule à la prière. Au fond du temple saint, paré de fleurs d'or, une femme. Foule prosternée, la regarde étonnée, et murmure tout bas, voyez, c'est la déesse qui dans l'ombre s'endresse. Sure. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh.

mai suora d'anni nemmeno sagliette, tu sai a to, tu sai a to, a to sto cuore in grado che io dispietto farmene un po', farmene un po', a to lo fuoco coce ma se fuie te lascia sta, te lascia sta, che corre a pie se non destruie, sarà a guardare. Yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, yambe, aiuta la capacia, la capacia, è chiuta poi tornata poi venuta sta sempre qua, sta sempre qua, a capa vuota vuota attorno attorno attorno a me, attorno a me, il cuore canta sempre no galurna spusamo in me. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, coppa iambea, funiculi, funicula. Iambo, iambo, coppa iambea, iambo, iambo, coppa iambea. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, coppa iambea, funiculi, funicula. Sempre un amabile leggiadro viso, impianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto è il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento. E di pensier, e di pensier, e di pensier. Libiamo, libiamo, nei lieti codici che la bellezza infiora, e là fuggevol ora s'inebria voluta. Le bianche dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Far be

mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà, ora sulla tua qua dirò. Quando la luce me così dolce restar qui, c'è freddo fuori. E al ritorno, curiosa, dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signore, che m'ami di io t'amo. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. like every child. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Ero con l'anima. quella vien col sole. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. To hear.